8. Ascolta le frasi e indica se il gli corrisponde a lui, a lei o a loro. 1. Non si preoccupi, signora. Prenoto io i biglietti e glieli invio per email. 2. Dico ai ragazzi di non fare rumore. Glielo dico tutti i giorni. 3. Questi orecchini sono di Maria. Me li ha prestati per la festa. Glieli restituisco subito perché ho paura di perderli. 4. Il medico non è mai libero. Non riesco a prendere un appuntamento. Glielo sto chiedendo da una settimana, ma ancora non mi ha richiamato. 5. Signore, questo è un regalo per lei. Glielo inviano i suoi studenti. 6. Le giuro che questa è la verità, ispettore. Glielo giuro. 7. Non consiglio alle mie clienti di usare questo prodotto. Non glielo consiglio perché è molto caro e non dà buoni risultati. 8. Signora Rossi, posso usare il suo caricabatterie? Carico il mio telefono e glielo rendo subito.